Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È uscito da pochi giorni il nuovo romanzo di Federico Moccia, si intitola L'uomo che non voleva amare, pubblicato da Rizzoli, ed è finito un romanzo adulto, per differenziarlo dai romanzi tipici di Moccia, da Tre metri sopra il cielo in poi, dedicati soprattutto ai giovanissimi. Questo romanzo dunque segna un po' una svolta nella carriera dello scrittore, anche se, come sentirete nell'intervista, Moccia non esclude di tornare al genere che l'ha reso famoso. Protagonista di questo romanzo è Tancredi, l'uomo che non vuole amare, quello che dà il titolo al libro. Un uomo freddo fino a quando incontra in una chiesa una donna che lo turba profondamente. Ma ecco come Moccia parla del suo protagonista. Si chiama Tancredi, il protagonista dell'uomo che non voleva amare, perché mi piaceva trovare un nome che rappresentasse semplicemente proprio in quello che è un pochino quello che si porta dietro come storia, non tanto per quello che è rappresentato nella letteratura quanto quello che è un pochino la sua storia, di Tancredi Ferri Mariani, che è un ragazzo all'inizio del libro molto ricco in una famiglia particolare piemontese. E c'è anche un personaggio femminile in questa storia. Lei è Sofia, ha una sua amica, Sofia è una pianista eccellente, fin da giovanissima, conosciuta da tutti proprio per questa incredibile capacità, per questa grandissima qualità, che improvvisamente all'età circa di 20 anni, quando proprio è nel massimo, all'apice di quello che può essere il suo successo in Italia e all'estero, mette tutto questo da parte, perché nella sua vita improvvisamente succede qualcosa. Ed è strano e particolare, perché questa donna poi raccoglie, oltre al fatto di essere questa grandissima pianista, anche una grande bellezza. Un qualcosa che noi ovviamente non anticipiamo perché andrà letto il libro, ma possiamo dire che relazione si crea fra Tancredi e Sofia? Beh, come spesso accade, mi è piaciuto raccontare, come poi immagino che possa accadere nella nostra vita. Noi conduciamo delle nostre esistenze individuali fino a quando poi non ci capita di incontrare una persona che magari ci stravolge la vita, che cambia un pochino tutto. È quello che accade a Tancredi, un uomo particolarmente ricco, abituato a vivere in una sua completa indipendenza, quando improvvisamente una mattina incontrerà all'interno di una chiesa questa donna, questa bellissima donna di cui lui non conosce assolutamente niente, è Sofia. Credo che siano due particolari spiriti, due persone che, come a volte accade, quasi come calamite, si attraggono e il destino quasi si diverte a farli incontrare. Da quel momento nulla sarà più come prima. Il protagonista Tancredi è quello che poi dà il titolo al libro, L'uomo che non voleva amare. Perché quest'uomo non vuole amare? Insomma, qual è il suo problema? Viene da una famiglia molto ricca. A volte essere abituati ad avere tutto con una certa facilità, mi è piaciuto proprio nei primi capitoli raccontare il più possibile, attraverso anche dei flashback, quelle che sono le cose che mi sono immaginato che possano essere capitati ai tanti diversi uomini che ci hanno dato modo un po' di conoscere le cose accadute a queste grandi famiglie di grandi ricchezze. Immagino, e quindi ho voluto raccontarlo attraverso lui, che oltre quella che può essere la facilità a condurre una certa vita dove non hai faticato, improvvisamente un dolore o qualcosa che non va rispetto a come sei abituato, che tutto dovrebbe essere in un certo modo, può inceppare questi meccanismi. Ecco che allora Tancredi, rispetto al rapporto con la sorella, ad un qualcosa di cui si sente in colpa e che non è mai riuscito a spiegarsi, ha nei confronti della felicità e soprattutto dell'amore in generale un distacco, una rabbia, una distanza, ma nello stesso tempo quasi un divertimento nel non credere nell'amore, e tutto questo diventa la ragione anche dello scontro incontro con Sofia. Questo è un romanzo che viene definito adulto, così per segnare un po' la differenza con i tuoi precedenti romanzi, che erano rivolti ad un pubblico di giovani, che avevano come protagonisti adolescenti e ragazzi. Come mai questo cambiamento di stile, di personaggi e anche di pubblico? Ma in realtà è più una curiosità, nel senso, io credo che uno scrittore poi fondamentalmente è una persona come tante altre e quindi si accorge o gli capita che in un certo momento della sua vita ha la voglia di raccontare una storia che possa essere diversa, ma che forse sotto sotto in fondo non lo è, nel senso che racconta comunque dell'amore, della difficoltà dell'amore, del dolore dell'amore. Anche perché quelle che possono essere stati i giovanissimi ragazzi che hanno letto il primo libro nel 2004, ormai 7 anni dopo, se avevano 14 ne hanno 21, quindi una profondità, un'abitudine alle emozioni, anche immagino, perché inevitabilmente l'amore ti pone di fronte a delle delusioni, di fronte a delle amarezze, di fronte, e quindi se hanno vissuto, come spero che sia stata la loro grande storia d'amore, che di solito in quell'età avviene e che purtroppo a volte non continua, sanno di che cosa stiamo parlando. Sono curioso anche perché c'è sempre stato un pubblico leggermente, cioè più adulto, che sicuramente si è tenuto o non si è sentito coinvolto in tutte quelle che sono state invece le grandi cose accadute intorno a questi romanzi, come la grande moda dei lucchetti, no? Che invece forse su questo libro si ritroveranno in maniera più personale. Ecco, però il tuo nome è stato legato inevitabilmente da romanzi come 3 metri sopra il cielo in poi, appunto a prodotti, diciamo, a romanzi destinati a un pubblico molto giovane. Insomma, nel tuo futuro tornerai a scrivere quel genere di romanzi o questo libro segna un cambiamento? Ma non posso dare con una estrema chiarezza, perché ecco, io trovo che lo scrivere sia sempre un piacere, deve essere quindi qualcosa che ti sorprende, a te stesso che scrivi, deve essere la voglia di raccontare una storia. Un libro a volte mi nasce semplicemente da un'immagine, da qualcosa che ho visto, da una persona che mi ha colpito e che o mi evoca qualcosa che in realtà ho già vissuto o mi suggerisce quello che sarebbe bello raccontare. Quindi perché no, insomma, tornare ai ragazzi potrebbe essere magari con una storia assolutamente più profonda o comunque diversa da quelle raccontate fino adesso. In realtà i personaggi che io poi avevo raccontato negli ultimi libri soprattutto avevano 37 anni, 40 anni, quindi non erano poi così giovani se non negli atteggiamenti. Ecco, la mia curiosità sull'uomo che non voleva amare è proprio come si ritroveranno anche questi quarantenni di fronte ad un altro atteggiamento e una profondità diversa rispetto ai precedenti. Spesso dai tuoi libri sono stati tratti dei film. Anche questo romanzo diventerà un film o non ci hai ancora pensato? Ma ancora non ci ho pensato, sinceramente. Io sono molto curioso perché L'uomo che non voleva amare, io credo che sia, come spesso poi accade, un libro è un qualcosa che tu hai creato dal nulla e quindi hai delle grandi aspettative, ma non per quanto riguarda il risultato, bensì in quello che effettivamente crea, nell'emozione, nella commozione, nel divertimento, nella sensazione che tante persone diverse da te, con animi e anche radici, esperienze assolutamente diverse, com'è l'individualismo, no, di ogni persona, si ritroveranno di fronte a questo libro. Se poi questo dovesse divenire un film, io ne sarei molto contento. Sicuramente non sarebbe semplice perché vive di grandi spazi, è un discorso più internazionale, sono delle persone, Tancredi e Sofia, abituati a vivere nel mondo rispetto a quelli che magari hanno centrato precedentemente i libri in Italia, in particolare a Roma, quindi abbiamo dei personaggi completamente diversi, come poi la stessa altre personaggi che ci sono all'interno del libro. E questo era Federico Moccia, ora in libreria con L'uomo che non voleva amare. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate anche su Facebook. Un saluto da Alessandra Tedesco.